Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures per presentare il film Illusioni Perdute di Xavier Jeannoli al cinema da giovedì 30 dicembre 2021. Ben trovato! Ben trovato Federico, ben trovati a tutti e grazie sempre per questi inviti per parlare dei film di I Wonder Pictures. Mi sembra un'opera molto interessante, ce ne parli? Illusioni perdute è stato proiettato per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia, ovviamente era un film in concorso che non è assolutamente passato inosservato, anzi è stato molto ben recensito e ce n'è stato un gran parlare, che poi non si è rivelato in dei premi sull'immediato alla Mostra di Venezia, ma è sicuramente stato definito uno dei principali film della rassegna. Ecco, di premi ne ha vinti poi, ma in particolare grazie alle interpretazioni. Illusioni perdute è un film in costume, sontuoso, di grande produzione francese, con un regista, Xavier Jeannoli, già conosciuto per vari altri titoli usciti anche in Italia, cito Superstar del 2012, Marguerite e L'Apparition, e un cast di primo ordine. Abbiamo Gérard Depardieu, che fa un vecchio editore analfabeta, molto cinico. Abbiamo Cécile de France, che è la coprotagonista. Abbiamo per la prima volta da attore su un film altrui niente poco di meno che Xavier Dolan, un interprete pazzesco oltre che essere un regista sopraffine, e nel ruolo principale di protagonista una futura star senza dubbio del cinema francese, Benjamin Voisin. Ecco, Benjamin Voisin è stato proprio con noi alla Mostra del Cinema di Venezia. E poi nel giro di anteprime che abbiamo fatto le scorse settimane, è un ragazzo di 26 anni, molto intelligente, molto capace, e ne ho visti veramente pochi di ragazzi abili in gamba come lui nell'interpretare personaggi anche molto complessi. Ecco, siamo stati a Roma a mostrarlo in anteprima, anche a Milano, a Torino, a Bologna e a Firenze, e proprio a Firenze ha ricevuto il premio di France Odeon, la Foglia d'Oro, che è un festival di cinema francese che assegna ogni anno un premio ai migliori talenti appunto della scuola francese. Due parole in breve sul film. Illusioni perdute è una delle novelle della Comédie humaine di Balzac, non a caso una delle novelle che Marcel Proust stesso ha definito il punto più alto della storia, insomma, di Balzac, e parla di questo giovane poeta che dalla campagna si trasferisce a Parigi per la prima volta grazie all'innamoramento con una dama, poi là si ritrova a scrivere per una testata giornalistica, e questa testata giornalistica rivela a lui e rivela poi allo spettatore i meccanismi che stanno dietro all'indubbia l'industria dei media, ovviamente un'industria che è cambiata nel tempo, nelle forme, ma non nella sostanza del populismo, delle calunnie a pagamento e le tentazioni che esistono dietro certi profili mediatici nella società contemporanea. Che circuitazione ha avuto a livello internazionale? È uscito per il momento solo in Francia. È un film che ha raccolto fino a 2 settimane fa oltre 800.000 spettatori. Dicevo prima, un film di grande budget, è un film di una produzione molto complessa con un lavoro corale di grandi attori che ha grandissimo respiro. In Francia è stato successo. Per quanto riguarda l'Italia, lo abbiamo già portato dalla scorsa settimana solo in alcune grandi città, quelle dove abbiamo già portato l'attore Benjamin Boisin in tour, quindi Roma, Milano, Torino, Bologna, e dal 30 sarà in circa 60 sale in tutta Italia. Quali qualità di questo film ti hanno impressionato in particolare? Sicuramente in primo luogo devo dire la performance degli attori. Mi sono già speso nell'elogiare Benjamin Boisin, è eccezionale anche l'interpretazione nel suo ruolo, che è quello di un altro scrittore, di Xavier Dolan, ma devo dire che un ruolo molto importante lo hanno anche le musiche, tralasciando ovviamente la ricostruzione delle scenografie, i costumi, eccezionale, solo una grande industria come quella francese riesce a mettere in piedi. Devo dire che si è stata fatta una scelta di musiche molto particolare, è una colonna sonora che permette di contestualizzare tanti passaggi anche narrativi ed è quella che rafforza quella che è la parabola del protagonista, che appunto dalla campagna si ritrova alla città e quindi va all'apice del successo per poi dopo essere denigrato e disprezzato. Ecco, abbiamo dentro la colonna sonora Vivaldi, abbiamo dentro la colonna sonora Rossini, Bach. Il film è godibile, dura 2 ore e mezza, ma volano, è una parabola umana davvero per tutti. Il film Illusioni perdute di Xavier Jeannoli al cinema da giovedì 30 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Dario Bonazzelli dei Wonder Pictures che lo distribuisce. Grazie a te Federico, e un'ultima raccomandazione a tutti i nostri ascoltatori: andate al cinema perché è sicuro, andate al cinema con la mascherina FP2, si sta bene, si passano 2 ore in grande serenità, senza alcun patema, mi raccomando, andate al cinema, meno al ristorante e più al cinema, che si sta meglio tutti. Buon anno! Buon anno! Con Enrico Parenti, regista del documentario Rigoletto 2020, Nascita di uno spettacolo, su Rai 3, giovedì 30 dicembre 2021, dopo il Rigoletto al Circo Massimo di Damiano Micheletto. Ben trovato! Ciao, ciao Federico, come stai? Bene? È un piacere, tutto bene. Siamo vecchi conoscenti. Siamo vecchi conoscenti. Sul tuo input avevamo fatto proprio l'intervista a Damiano Micheletto per il suo film Opera, e questa volta sentiamo te che hai realizzato un making of. Ce ne parli? Ho realizzato un misto di documentario, making of, un documentario d'arte per cercare di spiegare il Rigoletto anche a un pubblico che non conosce l'opera. Quindi sì, è un misto di dietro le quinte e interviste, momenti in cui il direttore d'orchestra cerca di capire alcuni passaggi del testo. Insomma, è un po' una cosa interessante perché mischia varie arti, no? C'è la danza, c'è la scenografia, c'è la direzione artistica del teatro dell'opera, c'è la regia, insomma, mischia un po' tutto e cerca di dare un'introduzione allo spettatore a quello che poi sostanzialmente è un'opera che va avanti da quasi 200 anni. Com'era nata l'idea di farne un documentario sulla realizzazione? Ma è stata un'idea dei produttori, perché mi hanno contattato, dato che io avevo lavorato in passato appunto in questa commistione tra teatro e documentario, anche a Stromboli facevamo questi documentari per Sky Arte, dove appunto mischiavamo Shakespeare, mischiavamo teatro dal vivo, documentario, analizzavamo le opere, e quindi mi ha chiamato la produzione e mi ha sostanzialmente commissionato su questo lavoro, e per me è stata una prova abbastanza grande, perché poi questo spettacolo era enorme, le persone che ci lavoravano erano nell'ordine delle centinaia, e mi sono infilato dentro i meandri del teatro dell'opera e ho capito cos'è questo mondo gigantesco e mi sono molto affascinato. Poi io uso un po' il documentario per imparare cose nuove, per studiare autori nuovi che magari non farei. Infatti ho fatto due documentari su Shakespeare, ho fatto uno su Thoreau e un altro su Mary Shelley, e poi è arrivato questo Rigoletto di Verdi che piave. Insomma, arrivano un po' così questi progetti, però mi fanno fare un tuffo nella profondità di un'arte di cui non sono esperto. Che esperienza è stata? E apprendimento per me, perché allora il teatro dell'opera è estremamente gerarchico, una conoscenza verticale, perché tutti i musicisti sono esperti all'ennesima potenza del loro strumento, il direttore d'orchestra è una specie di dio, c'è una serietà pazzesca là dentro rispetto a tutte le altre arti o il cinema. È molto strano come ambiente, però è interessante, si vede che appunto c'è un modo di fare che è stato accumulato nei secoli. È stata una bella esperienza, non sapevo, infatti è interessante vedere il documentario perché si vede quanto il direttore d'orchestra lavora con i cantanti, quanto lavora con i musicisti, come ognuno reinterpreta un testo che poi nessuno ha mai potuto sentire, non è mai stato registrato, quindi reinterpretano delle note, delle velocità, dei modi, e ognuno cerca di riproporre un certo tipo di tradizione, ma questo tipo di tradizione è alla fine aleatorio, perché nessuno può sapere bene come interpretava le cose Giuseppe Verdi. Poi, vabbè, Damiano è rock, nel senso che lui è giovane, anche lui non arriva dall'opera e l'ha un po' scombussolata, nel senso l'ha un po' reinventata, l'ha resa più popolare, e quindi lui dirige gli attori come se fosse un teatro di prosa, un misto tra coreografia, recitazione, canto, movimento. Poi era tutto molto complicato perché lui voleva appunto riprendere lo spettacolo dal vivo, come si fa sempre, ma lui lo voleva riprendere in maniera più cinematografica, quindi ha messo sul palco 4 o 5 Steadicam, e queste Steadicam, ognuna di loro aveva uno schema preciso, una coreografia precisa che era stata studiata per un paio di mesi prima, e quindi si muoveva tutto come una specie di danza per questo grandissimo LED panel che c'era lì poi al Circo Massimo. È stata una bella esperienza. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Se ne occupa principalmente la casa di produzione, okay, che è Indigo Film, quindi sulla loro pagina Facebook si possono trovare tutti i vari articoli che sono usciti e poi dove sarà messo in onda. È stato anche preso da Rai Cinema e andrà in onda prima la ripresa dello spettacolo per intero e poi subito dopo verrà messo in onda il documentario. Il documentario Rigoletto 2020, Nascita di uno spettacolo, in onda su Rai 3 giovedì 30 dicembre 2021, dopo il film opera Rigoletto al Circo Massimo di Damiano Micheletto. Un saluto e un ringraziamento al regista Enrico Parenti. A presto! Grazie mille. Dai! Un abbraccio. Dai, grazie. Grazie mille. Ciao Federico. Con Maurizio Forestieri, regista del film La Custodia, in onda su Rai 3 venerdì 31 dicembre 2021 e su Rai Gulp il 1 gennaio 2021. Esatto. Ben trovato. Ciao, ben trovato anche a te. Fine e primo dell'anno. Fine e primo dell'anno. Che racconto è? È la storia di un ragazzo profugo, violinista, vorrebbe tanto suonare, però purtroppo è costretto a fuggire dalla sua terra. Il film racconta un po' questo viaggio avventuroso alla ricerca di un futuro, perché poi questo ragazzo incontra anche altre realtà che stanno tutte fuggendo da una situazione di guerra dove è impossibile pensare al proprio futuro, e quindi questo è un film che vuole raccontare purtroppo questa realtà che vive sulla pelle di tanti poveri ragazzi, bambini, anche minori, che si trovano ad affrontare viaggi pericolosi senza la certezza di una destinazione. Poi come nasce il film? è ispirato a dei personaggi reali, solo che sono stati riscritti, sono stati inventati su un ambiente, un pianeta che potrebbe essere la Terra, un altro pianeta, e quindi è una storia un po' distopica. Prende lo spunto da una situazione reale, perché effettivamente avevamo sentito di un ragazzo violinista che fuggiva appunto dal suo paese e che poi per sua fortuna era riuscito ad arrivare in Occidente ed era diventato anche un bravissimo musicista. La storia che noi raccontiamo è molto più fantastica, parliamo di un ragazzino di 13-14 anni che si trova proiettato in questo viaggio pericoloso, no? Attraversa deserti, attraversa purtroppo anche mari tempestosi, arriva poi alla fine in questa terra promessa, questo paese che noi abbiamo chiamato Spes dal latino, no? Speranza, no? Quindi arriva in questo paese e poi in realtà si trovano un muro, quindi questo muro che non riesce a farli passare oltre e che rischia anche di vanificare il loro viaggio e le loro speranze. E soprattutto di dargli una certezza del futuro. Il personaggio principale si chiama Fadi, incontra lungo il suo cammino una sua coetanea Naila, che lei che fugge da un altro paese in guerra, e anche altri ragazzi con cui tra l'altro non ha neanche un buonissimo rapporto. Alla fine sarà la musica, la sua passione che lui porta dentro di sé, che lo porta a una speranza di un futuro, che poi è quello che noi spesso ci dimentichiamo, che purtroppo le guerre portano centinaia di famiglie alla disperazione, sfuggono da situazioni pericolose e ne affrontano altrettante, perché poi è cronaca di tutti i giorni, no? Le persone che spariscono durante le traversate, il fatto che ci sia poi un racket legato alla, chiamiamola in maniera un po' volgare, alla transumanza di persone che si fa attraverso il Mediterraneo, e quindi tutto questo per noi è lontano, ma in realtà è storia di tutti i giorni, quindi volevamo raccontare una storia con uno stile anche abbastanza fantastico, un futuro distopico, ma che racconta di un presente abbastanza drammatico, quello delle famiglie costrette a fuggire dai paesi in guerra. Facendo un passo indietro, qual è il tuo percorso artistico? Al netto dei miei studi artistici di liceo artistico, poi ho fatto Accademia di Belle Arti e poi nel Centro Sperimentale di Cinematografia. Poi da lì la passione dell'animazione c'è sempre stata, quindi ho fondato una società parecchi anni fa, ormai con più di 30 anni, la Grafilm, e da lì ho sempre lavorato nel settore dell'animazione. Anzi, quando ero più giovane facevo anche l'animatore, quindi disegnavo tutto il giorno e animavo personaggi. Poi da lì, anche con l'ausilio di nuove tecnologie, con la digitale, eccetera, mi occupo di regia per quanto riguarda appunto il settore del cinema d'animazione. Tornando al film, hai avuto dei riferimenti iconografici rispetto alla messa in scena? Come ti avevo detto, è un po' un futuro distopico, quindi è un pianeta che è sospeso tra passato e presente, con delle antiche vestigia che affiorano da questi deserti, ma rimandano poi un po' al mondo anche di Mandalorian e di Star Wars, quindi c'è un futuribile molto molto sottolineato da queste macchine, da queste costruzioni. Comunque è un mondo certamente poco ospitale, quindi desertificato. Ecco, questo era un po' lo stile anche dei personaggi, con questi tatuaggi. Hanno una forte connotazione, e questo era una cosa che avevamo cercato fin dall'inizio. Per quanto non si parla di un paese preciso, però rimanda sicuramente ai paesi della fascia nordafricana, quindi l'aspetto orientale è molto presente nei personaggi. Per saperne di più, ci dai dei riferimenti web? Su Facebook c'è la mia compagnia della Grafilm, col PH, c'è tutto sulla custodia, non abbiamo fatto proprio un sito ad hoc. Su YouTube ho visto che già è uscito il trailer, e poi erano usciti un po' di articoli anche credo su Repubblica, su Cinecittà News. Ecco, una cosa ancora importante è che noi questo film l'abbiamo fatto anche con la collaborazione dell'UNICEF e della UNAR, insomma per noi è anche un po' un fiore all'occhiello, visto che si parla dei diritti dei minori, quindi coprodotto con Rai Ragazzi e con la collaborazione della UNAR e della UNICEF e oltre dell'IBACT, perché sono le strutture che si occupano appunto di quello che sono i diritti dei minori. il film di animazione La Custodia su Rai 3 venerdì 31 dicembre 2021, su Rai Gulp il 1 gennaio 2022 e poi su Rai Play. Un saluto e un ringraziamento al regista Maurizio Forestieri. A presto! Grazie, grazie auguri, grazie. Con Cesare Petrillo, curatore della rassegna XX secolo, l'invenzione più bella, 150 capolavori tornano sul grande schermo a Roma, al Cinema Quattro Fontane, dal 6 dicembre 2021 al 29 giugno 2022. Ben trovato. Grazie, buongiorno, come va? Bene, bene, è tanto che non ci si sente, è un vero piacere. Raccontiamo un po' di questa creatura. Questa creatura è un'iniziativa del Ministero, accolta a braccia aperte dal Centro Sperimentale Cineteca Nazionale, e miracolosamente sono entrato a far parte, miracolosamente dico perché è il lavoro da sogno, sono entrato a far parte di questa avventura. Scegliere i film da far vedere al pubblico, qualcosa c'è di più bello. Come si snoda? Ci sono dei giorni fissi della settimana? Raccontaci un po'. Sono 30 settimane. Ogni settimana è monotematica, quindi dedicata a un attore, un regista, uno sceneggiatore, e ogni artista viene raccontato con 5 film. Il lunedì, il martedì tutta la giornata e la domenica mattina alle 11 con una rarità o comunque un film abbastanza speciale. Abbiamo iniziato con Robert Altman, poi abbiamo fatto Jack Nicholson, poi c'è stato François Truffaut e questa settimana siamo arrivati invece sul passato, vero passato, con Barbara Stanwyck e si sono visti La Fiamma del Peccato, Lady Eva, Il Terrore Corre sul Filo, e questa domenica continuerà con Barbara Stanwyck e così andremo avanti fino a giugno, ogni settimana sarà dedicata a qualcuno che ci piace. Quante opere complessivamente? Sono 150 film. Un gran bel numero. Però in realtà è difficile scegliere 150 film. Perché certo. Infatti proprio a questo proposito volevo chiederti com'è stata la scelta. La scelta è stata fatta in base alle preferenze personali, perché da qualche parte uno si deve muovere. Certo. E avendo 30 settimane a disposizione, avendo 300 persone che si amano, abbiamo scelto 30 grandi artisti, un pochino anche tenendo conto di quanta visibilità hanno avuto i film e anche tenendo conto delle differenti nazionalità, per cui c'è un po' di America, un po' di Italia, un po' di Francia, un po' di Inghilterra, un po' di Svezia e forse ci sarà anche un po' di Danimarca. È tutto cinema del passato per quest'anno. Che arco temporale copre? Al momento non ci stiamo occupando del cinema muto per una questione tecnica, perché la Cineteca ancora non ha una sua sala e in questo momento siamo ospiti al Cinema 4 Fontane con l'attrezzatura del cinema contemporaneo, quindi un cinema commerciale che fa questo lavoro tutto l'anno. Poi speriamo di avere una sala nostra che verrà poi attrezzata anche per la proiezione di cinema muto, per la proiezione di cinema in 70mm, insomma come per tutte le grandi cineteche del mondo. Quindi in questo momento si va dagli anni 30 direi alla fine degli anni 70. Più o meno. Le proiezioni sono accompagnate anche da momenti di incontro? Finora ci sono state delle brevissime introduzioni da me curate. Come si dice, me la canto e me la suono. Quindi in realtà no, non ci sono commenti, ma ci sono delle mie brevi introduzioni, soprattutto sulle copie che non si vedono dalla data d'uscita, oppure in alcuni casi di film che non sono mai usciti in Italia e quindi sono inediti. Ecco, proprio a questo proposito, le copie da dove provengono? Da vari archivi, sono copie nella maggior parte dei casi bellissime. Gli americani, devo dire, come al solito rispondono con grande alacrità e quindi sono copie degli studios. Questa settimana abbiamo proiettato moltissimi film della Paramount. La settimana prossima di nuovo avremo molti film Paramount. Tra due settimane con Carol Lombard avremo addirittura una copia del MoMA. Un restauro nel nome. Insomma, quindi ci sono anche copie restaurate e copie restaurate che non sono mai viste in Italia, quindi sarà una gioia per gli occhi. In un momento di crisi delle sale, come sta rispondendo il pubblico? Siamo tutti molto soddisfatti perché abbiamo la media di 150 biglietti staccati al giorno. Per il cinema del passato, in una città che non è abituata a fare questo tipo di attività, è un'ottima risposta. tranne di crescere poi in futuro. Di fatto improvvisamente spunta come un fungo nel deserto questa rassegna della Cineteca, e soprattutto nel periodo natalizio, quindi ci sono i film di Natale e i film della Cineteca, ahimè solo a Roma per il momento, poi magari in futuro non è detto che la cosa non si allarghi. In chiusura ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Basta andare sul sito del Centro Sperimentale di Cinematografia, cliccare su Google, si arriva molto facilmente. La rassegna XX secolo, l'invenzione più bella, 150 capolavori del cinema tornano sul grande schermo dal 6 dicembre 2021 al 29 giugno 2022 a Roma al Cinema Quattro Fontane. Un saluto e un ringraziamento al curatore Cesare Petrillo. A presto! Grazie mille, grazie davvero. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.